Trump, la Bibbia e l'esercito, talebani sotto attacco Covid e infine Johnson e la via di fuga per Hong Kong. Benvenuti a una nuova puntata. Nessun luogo è lontano di Giampaolo Musumeci. Hong Kong's annual vigil marking the Tiananmen Square protests could be canceled for the first time in 30 years. یام یک مخلوقی از مخلوق خدا و ما مخلوق خدایم که تمام کفار جمع شدم نتونستم پیدا کنم. These are not acts of peaceful protest. These are acts of domestic terror. Welcome back to our place of work. Buona giornata e ben ritrovati ascoltatrici e ascoltatori in una nuova puntata di Nessun Luogo è Lontano. Con me ci sono sempre Antonio Tali, Ilaria Sesana, Valentina Ternullo e Andrea Macchioni. Quest'oggi in assistenza Luca Cremonese e in regia, come sempre, Roberta Frisani. 349-238-6666, il numero per SMS, WhatsApp, domande e commenti per i tre temi che toccheremo in questa puntata di Nessun Luogo Lontano. Naturalmente potete usare anche i social, la pagina Facebook è Nessun Luogo Lontano trattino Radio 24. Cercateci anche su Twitter, se amate cinguettare, due gli account da tenere d'occhio, che sono Nessun Luogo 24, ovvero Giampaz. Nel frattempo al 349-238-6666 c'è l'ascoltatore più veloce che va a commentare immediatamente il tema statunitense. Fra pochissimo ve ne darò conto, non prima però, Roberta, di andare a sfogliare i nostri dossier internazionali. Il primo che vi sottopongo ci porta in Svezia con le parole di Anders Tegnell, che è il principale epidemiologo dell'agenzia statale svedese, che è quello che ha ispirato sostanzialmente quello che fino a qualche tempo fa chiamavamo il modello svedese, sostanzialmente l'assenza di lockdown. Bene, ha detto testualmente: penso che avremmo potuto fare meglio. Se dovessimo imbatterci nella stessa malattia sapendo esattamente quello che sappiamo oggi, penso che finiremmo per fare qualcosa a metà strada tra ciò che la Svezia ha fatto e ciò che ha fatto il resto del mondo, ha detto Tegnell in un'intervista poche ore fa alla radio svedese. Una ammissione di colpa fra le righe, evidentemente. Quasi 4.500 svedesi morti per il coronavirus, con un tasso di mortalità, badate bene, a livello assoluto, pur essendo numeri drammaticamente alti rispetto ad altri paesi, non c'è davvero paragone, ma il tasso di mortalità è tra i più alti al mondo e soprattutto molto superiore ai vicini paesi nordici. In Danimarca, giusto per farvi un esempio, le morti sono state 580, in Finlandia 320, in Norvegia 237, questo lo riferiscono sempre le tabelle e le analisi dei dati sempre aggiornatissime della Johns Hopkins University. Un dato che ha moltiplicato le critiche sulla decisione del governo di non imporre le misure di blocco così rigorose come altri paesi avevano fatto, ha destato parecchio scalpore. Evidentemente la Svezia aveva vietato solo gli assembramenti, ricorderete, superiori alle 50 persone. Scuole, ristoranti e locali sono sempre rimasti aperti. E poi vi porto in Israele. Il premier Benjamin Netanyahu ha fatto presente ai leader dei coloni che si oppongono al piano di pace di Trump, in quanto sostanzialmente riconoscerebbe la nascita di uno Stato palestinese, che Israele si trova di fronte a un'opportunità storica di applicare la propria sovranità alla Giudea e Samaria. Il riferimento si fa a quella politica, quel dossier che è sul tavolo di Netanyahu, ma anche di Benny Gantz, che prevede l'annessione di parte della Valle del Giordano, l'estensione di tutte le leggi di Israele a quei luoghi abitati dai coloni occupati, secondo invece le comunità palestinesi. Sull'altro versante, Al-Abbas, che è il consigliere di Abu Mazen, leader palestinese, dice: voi nemmeno vi immaginate la collera che serpeggia fra i palestinesi, ogni casa, ogni giovane, ogni ragazza sono sul punto di esplodere, il premier Netanyahu sospinge la zona verso una guerra. E poi in Congo, dove Repubblica Democratica del Congo, dove arrivano ancora inquietanti notizie che riportano la parola Ebola fra i trend, almeno gli hashtag in quella zona. 5 persone sono morte, altre 2 sono state infettate dal virus nella città di Bandaka, poco più di 1 milione di abitanti. Siamo nell'ovest della Repubblica Democratica del Congo, 1 ora e mezza di volo circa dalla capitale Kinshasa. Proprio poche settimane fa si celebrava la fine dell'epidemia di Ebola nell'est del Congo, la città di Beni, praticamente sconfitta, ed ecco che riemerge in una zona, attenzione, il New York Times proprio poche ore fa scriveva chiedendosi come fosse stato possibile che a distanza di oltre 700 chilometri, quindi dal nord-est, dal Kivu, da Beni, fosse arrivato nell'ovest, a Bandaka, vicino alla capitale Kinshasa. In realtà dobbiamo ricordare che giusto 2 anni fa proprio Bandaka è stata uno dei focolai di una epidemia di Ebola che per fortuna non aveva fatto tantissimi morti, ma aveva tanto preoccupato soprattutto per la presenza del fiume Congo. Bandaka sorge proprio sul fiume Congo, che tuttora nella foresta congolese rimane una delle vie di comunicazione privilegiate, con delle enormi chiatte che attraversano sostanzialmente l'intero paese, con viaggi a volte di settimane, ma permettono un'osmosi tra i tanti villaggi, le grandi città e la capitale stessa. Immaginate zattere molto grandi di parecchi metri di lunghezza dove vengono trasportate merci, masserizie, ma anche persone. Evidentemente, oltre che una via di comunicazione, è anche una via di contagio. E naturalmente piove sul bagnato, è un paese disgraziatamente sfortunato. Non soltanto è molto difficile attuare test epidemiologici, sto parlando del Covid-19, ma è anche molto difficile gestire una malattia che da noi è sostanzialmente debellata grazie al vaccino, e parlo del morbillo. Dal gennaio 2019 più di 350.000 contagi e, pensate, 6.500 morti. E infine in Brasile, perché continua a peggiorare la situazione, parlo del Covid-19, oltre 30.000 i morti, siamo al quarto posto tra i paesi più colpiti dopo Stati Uniti, Gran Bretagna e Italia, 550.000 i contagiati, ma secondo le stime, secondo gli esperti, scusatemi, le stime sono evidentemente lontane dalla realtà, 15 volte più alto sarebbe il numero dei contagiati, come sempre, ma in tutti i paesi evidentemente c'è uno scollamento tra quello che è il numero derivante dai tamponi invece il numero stimato, perché non si riesce a testare evidentemente tutta la popolazione. Durante un incontro con i suoi sostenitori, il presidente brasiliano Jair Bolsonaro ha come sempre affidato a una certa arroganza condita di sarcasmo, con una battuta, la fotografia della situazione. Ha detto: sono dispiaciuto per le vittime del Covid, ma moriremo tutti. Nel frattempo vi segnalo anche che nei giorni scorsi ai microfoni della CNN è tornato a farsi sentire l'ex presidente Lula, che non ha perso occasione di attaccare duramente Bolsonaro. Ha detto: gestione irresponsabile, negligenza nella crisi del coronavirus e della situazione economica. Vedremo come evolverà, perché a questo punto anche la leadership di Bolsonaro potrebbe essere minata da questa mala gestione. Arrivano i messaggi al 349-238-6666, molti riguardano Trump, e allora andiamo negli Stati Uniti. Come avete sentito anche dalla GR, dalla voce di Riccardo Barlam, 140 città americane coinvolte, 8 noti di protesta, questo è il nono giorno, centinaia di arresti, anche se a sfogliare le cronache e i rapporti di polizia le manifestazioni si sono fatte meno violente. Difficile interpretare questo segnale, perché da un lato si potrebbe dire la polizia sta forse meglio gestendo queste enormi masse di cittadini che protestano, dall'altro forse gli stessi manifestanti riescono ad arginare i facinorosi che tentano di inquinare questa protesta. Vi faccio però spostare dalla realtà fisica, dalle strade di Manhattan, di New York, ma anche di Los Angeles e di Chicago e Washington, a quelle del web, dei social network, in particolare appunto Facebook e Twitter. E vi faccio sentire la voce, è un breve stralcio di un discorso che ormai è diventato virale, di un'attivista, Tanika Danielle Mallory, giovane afroamericana. Sentite cosa dice. They're burning down because people here in Minnesota are saying to people in New York, to people in California, to people in Memphis, to people all across this nation, enough is enough. Enough is enough, quando è troppo, il motivo per cui le case stanno bruciando è che le persone qui in Minnesota, lei parla proprio da Minneapolis, stanno dicendo alle persone di New York, della California e di tutti gli Stati Uniti appunto, che quando è troppo, è troppo. Allora, prima di andare nel merito della questione che abbiamo intitolato Bibbia ed esercito, a sottolineare il comportamento di Donald Trump con quella contestatissima, controversa immagine nella quale si è fatta ritrarre vicino alla cosiddetta chiesa dei presidenti, appunto con la Bibbia in mano, mentre al di fuori della Casa Bianca si scatenava sostanzialmente l'inferno, quella minaccia di prendere in mano la situazione, scavalcare i governatori, tra pochissimo spiegheremo perché parliamo di scavalcamento, e di spiegare l'esercito per gestire la situazione. Vengo ai vostri messaggi al 349-238-6666, d'accordo sull'uso improprio dei simboli religiosi o sulle credenze in campo politico, è sbagliato farlo, deve rimanere un fatto privato, però pure le manifestazioni contro l'attuale presidenza americana sono trascese, vanno represse con i mezzi leciti, visto che la protesta sta causando più danni di quella da cui è scaturita. Comunque, fuori discussione l'esagerazione del poliziotto Claudio da Verona, che così tenta di bilanciare un po' quello che è stato il detonatore, la morte di George Floyd, quei lunghissimi 8 agghiaccianti, aberranti minuti, e poi la reazione della società civile. Lo ricordo, siamo a 9 giorni, oltre un centinaio di città statunitensi coinvolti. Trump cerca di mostrare i muscoli, usa toni particolarmente arroganti, sono un presidente di legge e ordine, ha detto, se ricordate, ma non per fare paragoni stucchevoli, nel 2014 le rivolte di Ferguson, Obama si era più volte espresso con appelli alla popolazione rivolti a mantenere la calma. Questa è sicuramente una delle due differenze. Però dicevo, Trump dice voglio dispiegare l'esercito e risolverò velocemente il problema al posto delle autorità federali. Il rischio qual è? Beh, innanzitutto la politicizzazione dell'esercito, e questo sicuramente è un tema da tenere in considerazione. Lo hanno sottolineato anche alcuni analisti ed ex generali, vertici delle forze militari statunitensi, in varie interviste, tra cui il Financial Times. E in proposito vi cito proprio il Financial Times perché un ex colonnello dei Marines accende invece i riflettori su una questione alla quale onestamente non avevo pensato nemmeno io. Noi tutti sappiamo benissimo che le funzioni di ordine pubblico sono svolte da agenti di polizia in Italia e dai carabinieri, e raramente vediamo l'esercito. Abbiamo visto l'operazione Strade Sicure, ma c'è un perché al di là di questo. Esiste un addestramento specifico. Ecco, questo ex colonnello dei Marines al Financial Times dice: gli agenti di polizia sono addestrati per guardare i civili come cittadini dotati di diritti costituzionali da rispettare. I soldati sono addestrati a guardare i civili come potenziali minacce, mettendo in luce quello che appunto potrebbe essere un pericolo. Martin Dempsey, ex capo di Stato Maggiore, ha scritto su Twitter: l'America non è il nostro campo di battaglia, i nostri concittadini non sono nostri nemici, e così via. Un fiume, devo dire, di critiche. Anche su The Atlantic l'ex ammiraglio Mike Mullen, in un editoriale, ha scritto: resto fiducioso nella professionalità dei nostri uomini, nelle nostre donne in uniforme, obbediranno ordini legittimi, ma ho meno fiducia nella correttezza degli ordini che verranno dati da questo comandante in capo. Allora, c'è qualcuno di voi al 349-238-6666 che fa un plauso alla possibile presenza dell'esercito, un ascoltatore dice farà abbassare la cresta a coloro che sfruttano questa situazione per fare danni, saccheggi, non proteste, scrive un ascoltatore, sei troppo schierato. Abbiamo raccontato invece di come vi siano stati anche saccheggi e derive violente, come negli ultimi giorni invece cercavamo di interrogarci sul perché i saccheggi e le violenze siano state più limitate. E poi un ascoltatore: l'uso dell'esercito sarebbe legale? Se non ricordo male, negli Stati Uniti vige il Posse Comitatus Act che lo vieta. L'ennesima sparata o una virata verso l'autoritarismo? Così si chiede un ascoltatore, così ce lo siamo chiesti anche noi, ed ecco la risposta. Se una città o uno Stato rifiuta di prendere i provvedimenti necessari a difendere la vita e le proprietà dei loro cittadini, allora schiererò l'esercito degli Stati Uniti e risolverò velocemente il problema per loro. La Costituzione americana vieta l'uso dell'esercito come forza di polizia nazionale, ma l'Insurrection Act, una legge approvata nel 1807, dà al Presidente degli Stati Uniti il potere di mobilitare l'esercito federale per reprimere un'insurrezione, se c'è la richiesta da parte del governatore di uno Stato. Tuttavia, la legge lascia un certo margine di manovra al Presidente, che può agire a propria discrezione se ritiene che i disordini stiano mettendo a rischio le leggi e i diritti dei cittadini degli Stati Uniti. L'Insurrection Act è stato invocato raramente. Negli anni 60 il presidente Kennedy lo ha invocato per inviare le truppe federali in Mississippi e Alabama per far rispettare le leggi sui diritti civili, mentre nel 1968 l'esercito è stato schierato per sedare i disordini scoppiati in diverse città americane dopo l'omicidio di Martin Luther King. L'Insurrection Act è stato utilizzato per l'ultima volta nel 1992 a Los Angeles, per spegnere le proteste scatenate da un episodio di violenza da parte della polizia ai danni di un cittadino afroamericano. Davanti alla possibilità che si torni a utilizzare di nuovo questo strumento, il governatore dello stato di New York, Andrew Cuomo, ha parlato di un presidente che si vede come il protagonista di un reality show. The president wants to make it a reality TV show of God and country. Semaforo rosso anche da parte di J. Robert Pritzker, governatore dell'Illinois. I reject the notion that the federal government can send troops into the state of Illinois. Critiche all'annuncio di Donald Trump sono arrivate da chi ha indossato una divisa. Il generale Martin Dempsey, ex capo di Stato Maggiore, ha scritto sul suo profilo Twitter: «L'America non è il nostro campo di battaglia. I nostri concittadini non sono nostri nemici». A questo punto Donald Trump avrà il coraggio di forzare la mano? E questa quindi la mossa possibile e probabile di Donald Trump. Come avete sentito, l'ultima volta l'utilizzo dell'esercito per le strade statunitensi è stato il 1992, non una pratica particolarmente utilizzata, ma è evidente che dal punto di vista politico si lancia un segnale. Lascio a voi l'interpretazione, evidentemente, che tipo di leadership possa essere quella di un presidente che invoca l'esercito. Per quanto, come ripeto, alcuni di voi al 349-238-6666 fanno un plauso a questa possibilità, evidentemente apprezzando quella che è la durezza, anche la muscolarità nella repressione da parte, almeno nelle parole, perché poi bisogna vedere se lo farà, del presidente statunitense Donald Trump. Questa non è l'unica gatta da pelare per l'amministrazione statunitense. Nel frattempo Antonio Tale mi segnala una breaking news. Trump ha annunciato un piano per bloccare l'arrivo delle compagnie aeree cinesi negli aeroporti statunitensi a partire dal 16 giugno. Tra pochissimo andremo anche ad Hong Kong, perché la diatriba tra il braccio di ferro, altro che diatriba, tra Stati Uniti e Cina potrebbe anche coinvolgere Hong Kong con un terzo incomodo, ma non voglio anticiparvi troppo. Dicevo, un'altra spina nel fianco è la più lunga guerra che gli Stati Uniti hanno mai combattuto, ed è il teatro afghano, e quindi è venuto il momento di andare proprio in Afghanistan. Andare in Afghanistan per raccontarvi che cosa? Beh, che a un certo punto i leader talebani, l'intera leadership, a sentire le indiscrezioni, ha dovuto fronteggiare un nemico molto più pericoloso dei droni statunitensi, molto più pericoloso delle forze di sicurezza afghane e volendo anche delle diatribe, delle faide interne. Questo nemico è il Covid-19. Se fosse confermato, il colpo subito dalla dirigenza talebana sarebbe di quelli da scrivere nei manuali di storia contemporanei. Il leader Hibatullah Akhundzada sarebbe morto, la notizia non è confermata, qualcuno dice gravemente malato. Sicuramente, come ha ben scritto Claudio Bertolotti, analista e direttore di Sart Insight, su un lungo articolo pubblicato su ISPI e IAI, la mancanza del suo messaggio augurale alla festa dell'Eid al-Fitr, che è la fine del Ramadan, ha preoccupato, e non poco, preoccupato evidentemente i suoi accoliti. Buongiorno quindi a Claudio Bertolotti, ben ritrovato qui a Nessun Luogo. Buongiorno, buongiorno Giampaolo e a tutti gli amici di Radio 24. Allora Claudio, tu scrivevi fra l'altro in questo interessante articolo che probabilmente il figlio di Mullah Omar, non ancora trentenne, potrebbe aver preso la leadership talebana ad interim. Se fosse confermata la morte del leader e che il figlio di un vecchio leader, di una figura molto carismatica e molto ascoltata, anche ispirazionale in qualche modo, che significato ha per la leadership talebana? Ma Quello che dobbiamo aspettarci in questo momento è un riaccendersi della competizione tra i gruppi di potere all'interno del Consiglio Supremo Talebano, di cui il Mullah Yaqub è membro, nonché vice dell'intero movimento talebano. Così come accadde nel 2015, quando presa nota la morte del Mullah Omar, lo storico fondatore del movimento, che in realtà era deceduto 2 anni prima. Ecco, in quel momento i talebani furono scossi da lotte intestine e scontri aperti che portarono anche a uccisioni di leader di importante livello, e in particolar modo del capo dei talebani di allora, Mullah Mansur, che fu eliminato a seguito di correnti interne non favorevoli alla sua presenza e attraverso un attacco drone statunitense, le cui coordinate furono probabilmente date dai talebani attraverso il Pakistan. Dunque un rischio concreto di frammentazione in più correnti che si è cercato verosimilmente di evitare attraverso la nomina o il temporaneo incarico dato a Mullah Yaqub di guidare il movimento talebano in questo momento difficile. Sì. E interessante è il fatto che, guardando alla comunicazione scritta dei talebani, il Mullah Yaqub sia presentato oggi, in realtà da qualche mese, come Malawi, cioè il massimo titolo religioso che corrisponde al titolo di Ibatullah Akhundzada. Sì. E quindi, insomma, sommando i tasselli, componendo i tasselli, il quadro che ne emerge è sostanzialmente un grande punto di domanda sul futuro. Resta una certezza che i civili afghani continueranno a fare le spese di questa strana e fluida situazione. Utilizzo questo termine perché qualche giorno fa il New York Times, con una penna formidabile, Mujib Mashal, fra l'altro con delle foto, vi consiglio di spulciare in rete se le trovate, quelle di Jim Uilebrock, sono eccezionalmente potenti, ha avuto accesso al distretto di Alingar, che è governato dai talebani. Le foto sono davvero eccezionali. Sostanzialmente, comunque, Mashal, appena nel New York Times, sottolineava il fatto della estrema liquidità di tante piccole cellule talebane capaci di dissolversi, di reclutare velocemente, di essere molto elastiche rispetto anche alle mosse della coalizione internazionale e delle forze di Ghani. Questo che cosa significa per il futuro? Visto che i talebani aspirano a due cose sostanzialmente: il ritiro totale degli statunitensi, e ce l'hanno quasi fatta, no? Secondo, però, aspirano a governare, a controllare il paese. Non verrà per loro il momento di, Claudio, assumere una forma più istituzionale, più governativa, meno fluida? I talebani hanno dimostrato una grande capacità organizzativa come movimento insurrezionale, addirittura migliore di quella del 1996-2001, quando governarono il paese. Il problema però è il passaggio da movimento insurrezionale a forza di governo di uno Stato che oggi è sostanzialmente fallito. Quindi i talebani sicuramente hanno già cambiato anima, sicuramente la cambieranno e dovranno cambiarla per forza di cose, perché gestire uno Stato non è cosa facile e gestire invece un movimento insurrezionale è sostanzialmente più semplice. Il problema è che dovranno interfacciarsi e dovranno tenere anche, come dire, il benestare da parte della comunità internazionale, che è quella che da un lato riconosce, ma dall'altro fornisce anche il supporto economico e finanziario affinché uno Stato possa funzionare. È quella stessa comunità internazionale che oggi sostiene lo Stato afghano, così come la comunità internazionale lo ha desiderato. Di fatto quello Stato non è mai veramente esistito, è sostanzialmente fallito nei suoi obiettivi principali, e quindi i talebani si andranno a inserire in quei vuoti lasciati dalla comunità internazionale, da uno Stato che non funziona, inserendosi senza andare a distruggere completamente almeno l'apparato statale. Poi credo che dovremo rinunciare invece allo Stato democratico, almeno nella forma così come l'abbiamo conosciuto oggi, e alla stessa Costituzione afghana alla quale i talebani hanno giurato di non piegarsi mai. La voce di Claudio Bertolotti. Tra pochissimo apriremo un tema che è importantissimo, perché il motore di tutto questo, il ritiro statunitense, l'accordo con Ghani, gli accordi appunto di Doha, era che sostanzialmente i talebani dovevano smettere di offrire rifugio, o se non addirittura spalleggiare Al-Qaeda, la base, la più orrorifica dopo l'ISIS ormai, organizzazione terroristica al mondo. Ma è davvero così? Andiamo a sentire la borsa e poi questa domanda con Claudio Bertolotti. Fineco, è tempo di investire con noi. Vi presento. Nessun luogo è lontano. Ancora buona giornata e ben ritrovati ascoltatrici e ascoltatori in questa puntata di Nessun Luogo è Lontano. Tre i temi che stiamo affrontando in questo momento. Stiamo sfogliando la lunga pagina dedicata all'Afghanistan dopo aver raccontato delle ultime ambizioni di Donald Trump, cioè l'utilizzo dell'esercito per governare i facinorosi che stanno inquinando le proteste che tuttora stanno continuando negli Stati Uniti dopo la morte di George Floyd. Tra pochissimo andremo a Hong Kong per raccontarvi l'ultima mossa di Boris Johnson. Tre temi, tanti messaggi che arrivano al 349-238-6666. C'è qualcuno che, non certo abbracciando la pietas latina, dice: beh, almeno il Covid ogni tanto fa qualche vittima per cui non dobbiamo piangere, e fa riferimento evidentemente ai leader talebani. Perché? Perché se le notizie fossero confermate, Ibatullah Akhundzada potrebbe essere morto. Ne stiamo chiacchierando con Claudio Bertolotti, direttore di Start Insight. Lo ricordo, questa nuova creatura che fornisce analisi e riflessioni sulla contemporaneità, sulle relazioni internazionali. E Claudio Bertolotti, che è direttore e ha vissuto l'Afghanistan in prima persona, ci sta aiutando a capire cosa significhi non soltanto per i talebani ma anche per i cittadini afghani, la società civile, avere una leadership decapitata. Claudio Bertolotti, torno da te perché c'è un altro punto che volevamo esplorare. Secondo un rapporto di UNODC, che lo ricorda è l'ufficio anticrimine delle Nazioni Unite, i talebani starebbero continuando a sostenere Al-Qaeda. Questo era il grande pilastro sul quale si è fondata la politica statunitense degli ultimi mesi, gli ultimi anni, i lunghi colloqui a Doha. Se fosse vero, che cosa cambierebbe nel teatro afghano? Ma allora, intanto i talebani hanno bollato come falso il rapporto delle Nazioni Unite e ovviamente c'era da aspettarselo. Sì. Che vi sia un legame consolidato e duraturo, che i talebani stessi hanno difficoltà a voler recidere, ed è un legame che al di là delle promesse e delle premesse dell'accordo negoziale non sorprende. E non dobbiamo farci illusioni su un possibile allontanamento di Al-Qaeda dall'Afghanistan dei talebani, certamente nel breve periodo. Troppo stretti sono i rapporti tra le due organizzazioni, troppo stretti sono i rapporti personali e in alcuni casi anche familiari tra componenti di Al-Qaeda in Afghanistan e i talebani. La Khani Network, che è una delle componenti, forse la componente più radicale, sì, all'interno del Supremo Consiglio talebano, ha assimilato l'anima qaedista e ad essa è votato, seppur con un'adesione di opportunità sulla base di priorità afghane e non di jihad globale come Al-Qaeda. Credo che l'opzione di una scissione tra talebani, che non è da escludere, possa essere funzionale al mantenimento di un legame con Al-Qaeda e una parte del fronte talebano, così che i talebani della Shura di Quetta possano presentarsi al tavolo negoziale dicendo: noi non sosteniamo Al-Qaeda, ma è una componente che si è distaccata dal nostro movimento a farlo. Certo, e i talebani dissidenti potrebbero fare il lavoro sporco, tra virgolette, per i talebani, quelli puliti, quelli che parlano a Doha e quelli che potrebbero rassicurare gli Stati Uniti sulla loro buona volontà. Naturalmente mi sembra uno scenario francamente orrorifico, Claudio Bertolotti. Spero per una volta che tu ti stia sbagliando, però intanto ti ringrazio per la tua presenza e il tuo lavoro. Claudio Bertolotti, Start Insight, buona giornata e buon lavoro. Grazie a voi e buona giornata a tutti. Allora, 349-238-6666, prima di andare a Hong Kong vi do conto di un altro po' di messaggi che sono arrivati al 349-238-6666, commenti e domande, soprattutto commenti. Io prego gli ascoltatori che vogliono attaccarmi che lo facciano, però che articolino un po' meglio, perché un messaggio che recita: certo che non perdi occasione per dimostrare quanto tu sia schifosamente schierato a sinistra, io direi che è l'ultima volta che lo leggo. Provate a sostanziare un po', anche ferocemente, non ho paura di rispondervi assolutamente, però all'urlo di contenuto, ecco, vorrei articolare l'argomento e la discussione. Enough is enough, scrive Luigi da Milano, evocando il discorso della giovane attivista che vi abbiamo segnalato poco prima. Qualcuno scrive: Trump dovrebbe schierare l'esercito contro se stesso. Qualcun altro: è innegabile che Trump debba combattere i nemici interni del Deep State, tesi molto presenti in rete che fomentano determinate associazioni. Continuate a buttare beep su Trump, mi pare così. Un ascoltatore che evidentemente non legge la cronaca e non legge le dichiarazioni e le prese di posizione politiche, perché è quello che stiamo facendo. Stiamo riportando le prese di posizione di politici, di commentatori, di analisti, di ex militari che giudicano estremamente controversa e pericolosa la possibilità di schierare l'esercito nelle strade statunitensi. 349-238-6666 per voi. A questo punto, Roberta Frisani, andiamo a Hong Kong. Andiamo a Hong Kong perché tra stanotte e domani ricorre il 31esimo anniversario della strage di piazza Tiananmen. È il 4 giugno del 1989, l'intervento dell'esercito cinese contro i manifestanti che si assepavano a decine e decine di migliaia nella grande piazza di Pechino per chiedere riforme democratiche. Quella strage in Cina è un gigantesco rimosso, don't ask, don't tell, potremmo riassumere, insomma non se ne parla. Se il regime di Pechino ne parla, lo fa in maniera totalmente revisionista. C'era un luogo però, fino appunto a questa notte, a queste ore, in cui si poteva celebrare degnamente quell'aspirazione democratica, in cui si potevano piangere i morti, in cui si poteva ricordare lo sforzo fatto da decine di migliaia di cittadini cinesi. Peraltro il bilancio di quella strage non è mai stato ufficializzato, non sappiamo quanti morti esattamente, non sappiamo quante persone incarcerate, non sappiamo quante famiglie abbiano pagato nel corso degli anni quell'anelito democratico che tentarono di chiedere, di sussurrare, di supplicare, di urlare a quel punto, se ricordate le immagini, al regime di Pechino. Ma Hong Kong, grazie al suo status speciale, consentiva invece questa libera espressione, questa libera manifestazione. La stessa libera espressione, quei cinque punti, ricordate, che abbiamo raccontato tanti mesi fa, quelle proteste, prima la rivolta degli ombrelli 2014, poi quella legge sull'estradizione che tanto fece infuriare studenti universitari non solo a Hong Kong, e infine adesso, sempre sullo sfondo della governatrice Carrie Lam, che mi segnala Antonio Tella, dovrebbe essere in queste ore proprio a Pechino per limare che cosa? La nuova legge speciale sulla sicurezza, che sarebbe davvero il colpo di grazia per le aspirazioni democratiche di Hong Kong. Segno che la macchina burocratica si muove molto molto velocemente, segno che Pechino non intende assolutamente fare un passo indietro. Cosa ci aspettiamo? Allora, innanzitutto alle 14 ora locale italiana c'è stata una sorta di veglia, i messaggi sono corsi moltissimo sul web, sui social network, sono state accese delle candele alle finestre. Quello che potrebbe accadere è piuttosto domani qualche manifestazione un pochino più accesa e più fisica soprattutto. Ma la notizia vera bomba è quella che Boris Johnson ha scritto un editoriale, lo potete leggere fra l'altro sul sito del South China Morning Post, dicendo che cosa? Beh, che è pronto sostanzialmente ad aprire le porte del Regno Unito ai cittadini hongkongesi che dovessero sentirsi in pericolo per la loro vita, non tanto fisicamente, ma per il loro stile di vita, per quello stile di vita che tuttora è ancora, benché scricchiolante, democratico. Sostanzialmente Boris Johnson fa da Deus ex machina, si infila in questa contesa tra Hong Kong e la Cina. Questo editoriale pubblicato stamattina dice che se la legge proseguisse il suo iter, e fa riferimento alla legge, la nuova legge sulla sicurezza nazionale che verrebbe applicata su Hong Kong, potrebbe concedere uno status speciale, pensate, a 3 milioni di cittadini di Hong Kong. Si tratta intanto di 350.000 hongkongesi già titolari del cosiddetto passaporto BNO, cioè British National Overseas, e altri 2.700.000 persone che potrebbero richiederlo. La cosa interessante è che tutti questi hongkongesi che potrebbero appunto fare questa richiesta potrebbero poi chiedere asilo e visto di lavoro nel Regno Unito, quindi nel lungo termine diventare anche cittadini britannici. Mossa astuta, mossa maliziosa che arriva proprio in epoca, nonostante il Covid, di Brexit. Brexit, un momento in cui la Gran Bretagna probabilmente si troverà a corto di manodopera molto formata, intellettualmente alta, acculturata, e perché no? Perché non utilizzare il serbatoio di Hong Kong? Ve ne parlo tra pochissimo, prima però andiamo a sentire la viabilità. Nessun luogo è lontano. Ancora buona giornata, ancora ben ritrovati ascoltatrici e ascoltatori. L'ultima pagina di Nessun luogo lontano vi porta a Hong Kong con la mossa, il colpo di scena di Boris Johnson, che promette sostanzialmente asilo politico, possibilità di accesso al Regno Unito, cittadinanza nel lungo termine a ben 3 milioni di cittadini hongkongesi, ben più di un terzo della popolazione di questa ricchissima città, ex colonia britannica, uno status speciale che andare al 2047 dovrebbe svanire, evaporare. Il sistema un paese due sistemi sta vacillando sotto i colpi dei manifestanti che invocano invece maggiori riforme democratiche, una Cina che non vuole arretrare. Ne parliamo proprio nelle ore in cui si ricorda il massacro di piazza Tiananmen, un ricordo brutale per molti, un ricordo molto molto doloroso, ma che ancora una volta diventa assolutamente fumoso se si gira per le stanze del potere di Pechino. Non se ne parla, se se ne parla di quella piazza Tiananmen il revisionismo è sempre dietro l'angolo. E poi la mossa astuta di Boris Johnson, dicevo che un'ascoltatrice, Erta, bolle in questo modo: se il Regno Unito applicasse la stessa politica accogliente anche tutti i profughi generati dagli interventi sbagliati in Iraq, per esempio, poi ammessi da Blair, e invece puntini puntini così. Un'ascoltatrice che sottolinea che cosa? Beh, la grande malizia, l'astuzia se volete, del premier britannico, complice una delle spiegazioni per questa tesi, che la Gran Bretagna si è accorto anche di immigrazione altamente qualificata. Ecco, Hong Kong potrebbe fornirla, e allo stesso tempo politicamente andrebbe a sparigliare le carte. Certo, c'è da stare attenti, perché Boris Johnson si sta mettendo a giocare su un campo da gioco piuttosto vasto, non è che il Regno Unito abbia la stessa potenza di fuoco, uso i termini in senso lato evidentemente, degli Stati Uniti, che possono ingaggiare un braccio di ferro con la Cina nel lungo termine. Un Regno Unito, chissà, io ho qualche perplessità, ma la mia modestissima opinione, e lascia naturalmente il tempo che trova. Mentre invece trovo assolutamente rilevante il commento, il racconto, l'opinione di Lisa Giucca, autrice di 30 giorni a Hong Kong, frammenti di una protesta, è un libro edito da Scalpendi Editori. Lei è editorialista per Reuters Breaking Views, dal 2014 al 2017 ha lavorato come cronista e caporedattrice a Hong Kong, e poi recentemente si è immersa letteralmente per 30 giorni e 30 notti in quello che è il movimento di protesta di Hong Kong. Ha provato a fotografarla in un minuto, sentite. La protesta esplosa spontaneamente nell'estate del 2019, è un movimento senza leader dichiarati che abbraccia ampie fasce della popolazione di Hong Kong e anche varie generazioni. Dietro la protesta ci sono sicuramente gli studenti universitari, ma anche studenti delle superiori, molto più giovani. Sono la cosiddetta generazione SAR, ovvero i giovani che sono cresciuti in un'epoca postcoloniale di parziale autonomia e non vogliono perdere le libertà acquisite. Ma c'è molto di più dietro la protesta, ci sono i professionisti della media borghesia, per esempio avvocati, medici, insegnanti, che temono di essere soppiantati da omologhi della madrepatria cinese. Ci sono anche i sostenitori dei diritti umani che lottano per maggiore democrazia fin dai fatti di Tiananmen. Ci sono anche cittadini comuni, padri, madri, nonne, nonni, che temono per il futuro dei loro ragazzi. Diciamo che sono tutti uniti da un sentimento di dissenso nei confronti del governo di Hong Kong e di riflesso nei confronti del governo centrale cinese, che non ascolta le richieste dei cittadini. E mentre ascoltate la voce di Elisabetta Giucca, editorialista di Reuters Breaking News, il suo libro 30 giorni a Hong Kong, frammenti di una protesta, l'ha sintetizzato in questo modo: l'anima delle moltitudini di persone che stanno ormai da tempo inscenando il braccio di ferro con Pechino. Le vostre voci, la mossa di Boris è geniale, ma avrà la forza di sostenerla come fa con il 5G, oppure una mossa combinata con Trump, così Giancarlo da Roma. Qualcun altro chiede: diventerà una pedina di scambio per un futuro accordo commerciale UK-Cina? noi non interferiamo, voi ci date un accesso privilegiato rispetto ai paesi dell'Unione Europea, e questa è una delle tesi che viene avanzata proprio dagli analisti. Mossa generale di Boris Johnson, ci torniamo tra pochissimo, però fatemi chiedere a Elisabetta Giucca una storia e un volto su tutte tra i tanti, decine, centinaia di manifestanti che ha incrociato. Sentite. Ma vorrei offrirti due volti che rappresentano due anime della protesta. Uno dei personaggi che mi ha maggiormente colpito è sicuramente Long Hair, un politico locale molto conosciuto, una sorta di Che Guevara di Hong Kong, che da oltre 30 anni lotta a fianco dei più deboli. È uno di quelli che ci mette la faccia, consapevole dei rischi. Quando l'ho incontrato mi aveva predetto che ci sarebbero stati arresti di massa, e lui infatti è stato arrestato. E anche che la Cina si sarebbe vendicata di Hong Kong, ma a sangue freddo, come sta avvenendo ora. L'altro personaggio è FP, il nome non lo posso rivelare per intero. Questa è una ragazza, ex avvocato e accesa sostenitrice della protesta, molto addentro nel movimento, ha messo a disposizione la sua casa per ospitare i cosiddetti frontliner, i gruppi più violenti che hanno preso di mira e devastato simboli del potere governativo come la metropolitana MTR. Rappresenta l'anima esuberante e idealista della contestazione, la generazione più giovane che non si sente parte della Cina popolare e forse nemmeno cinese. Elisabetta Giucca, il suo libro sui manifestanti di Hong Kong, frutto di un lavoro di 30 giorni full immersion. Peraltro ricordo anche della stessa collana il lavoro di Nicola Longobardi, Be Water, che è una celebre frase usata da Bruce Lee per descrivere il suo sistema di combattimento, la fluidità, cercare di cambiare continuamente tattica per confondere l'avversario e poi colpire. Il libro di Nicola Longobardi è evidentemente invece un libro fotografico, ve lo cito perché è la stessa collana del collega di Reuters, e poi perché Nicola è stato molto spesso ospite qui a Nessun Luogo Lontano, e abbiamo anche mostrato sui nostri social parte di quel lavoro fotografico con una lunghissima serie di ritratti che cercava proprio di dare un volto, benché mascherato, alle tante anime della protesta di Hong Kong. 349-238-6666 per voi. Però torniamo all'annuncio di Boris Johnson. British Prime Minister Boris Johnson has announced that his government will actually overhaul the British immigration policy to fast-track citizenship for the residents of Hong Kong. Questo è l'annuncio data da una TV britannica. Qual è la reazione e il commento di Elisabetta Giucca a questa apertura del Regno Unito rispetto, pensate, potenzialmente 3 milioni di cittadini di Hong Kong? È la prima volta che la Gran Bretagna offre un aiuto concreto ai cittadini di Hong Kong. L'ultimo governatore di Hong Kong, Chris Patten, aveva infatti molto criticato la scelta del governo di allora di non offrire la cittadinanza ai coloni di Hong Kong prima del passaggio alla Cina nel 1997. Questa decisione fu presa perché si temeva ci sarebbe stata un'invasione. Con l'offerta di oggi Johnson cerca quindi di riparare a questo peccato originale e potrebbe garantirsi un afflusso di professionisti molto qualificati da Hong Kong in un momento complesso per via della Brexit. A Pechino la mossa sicuramente non piacerà, ma se la Gran Bretagna si prende in casa dei dissidenti o considerati tali e li allontana dal territorio cinese, forse questo alla Cina non dispiacerà. Questa l'analisi di Lisa Giucca, lo ricordo, ha scritto un libro, 30 giorni a Hong Kong, frammenti di una protesta, Scalpendi Editori, la collana è contemporaneamente della stessa collana, trovate anche il libro fotografico che in qualche modo fa il paio proprio con la ricerca di Giucca, il libro fotografico invece dell'amico, collega, fotografo Nicola Longobardi, che è spesso nostro ospite e che c'è da giurarlo in queste ore lì che scarpina tra le strade di Hong Kong a caccia di notizie e di storie, magari chissà, già domani potrà raccontarci qualcosa. Lo ricordo, in queste ore si celebra Piazza Tiananmen, 31 anni fa quella strage. 349-238-6666, c'è qualcuno che ironicamente, anche forse con tono un po' irriverente, la mossa di Johnson è identica alla nostra, che importiamo clandestini specializzati dall'Africa. Poi ci sono un paio di domande e vado velocissimo sul podcast di ieri, ve lo segnalo brevissimamente, era una puntata speciale, Io sono il cattivo, coproduzione con Audible, quindi per il podcast dovete rivolgervi a quella piattaforma. Detto ciò, Roberta Frisani, una parola. Oh, E un saluto e un ringraziamento, il saluto e il ringraziamento vanno sia a voi che alla squadra di Nessun Luogo Lontano. L'appuntamento è domani ovviamente alle 16. Una buona serata da Giampaolo Musumeci.